Allahumma anta salamu wa minka salam wa ilaika yarji'u salam. O Allah, tu sei la pace, da te viene la pace e da te dipende la pace. Hayyina rabbana bisalam. Facci vivere, Signor nostro, in pace. Wa adkhilna dar as-salam. E facci entrare nella casa della pace. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Sii benedetto, Signor nostro, ed esaltato. Ya zal jalali wal ikram. O titolare della maestà e della gloria.